Fate ascoltare un po' più del resto delle altre serate di 451, vero, fate ascoltare chiaramente, mi riferisco alla sigla. Buonasera a tutti o buonanotte, per qualcuno sicuramente buonanotte. Max Macchia questa sera appunto ritorna dentro 451 frammenti sonori, un saluto caldo, caloroso e quant'altro ad Eliseo Scarpa, che probabilmente ci sarà la prossima settimana. E una delle cose che stiamo facendo insieme al mio compagno di viaggi da 10 anni a questa parte è quella di infilare, inserire, innestare musiche, musicalità, sonorità e attitudine anche sperimentali dentro una trasmissione che appunto cerca di esplorare dei linguaggi magari inauditi o uditi, però magari con altri punti di vista, magari giocando, come è stata 2 settimane fa nella scorsa trasmissione, sui suoni e sui divertissement così più dada se vogliamo più così innocui, ludici, oppure esplorare situazioni legate al drone, legate a una sorta di neo-ambient di questi ultimi anni, tanto per citare una delle cose che insomma ha interessato 451 in quest'ultimo periodo. 10 anni, si è messo anche tanto rumore e appunto per dedicare una trasmissione ci sembrava insomma il caso di farlo dentro appunto questa sorta così di riflessione che si è aperta con il 2010 dentro 451 frammenti sonori, sperando anche che ci sia una sorta di rimando. Forse è un po' presuntuoso insomma arrivare addirittura a dire questo, però di certo c'è qualcosa che si è mosso in termini riflessivi, ad esempio un bel libro della ISBN che racconta proprio direttamente sul campo quelli che sono gli anni zero immediati, quindi, perché insomma poi di fatto si potrebbero anche dire non finiti e conclusi del tutto, visto che poi anche la situazione che ci stiamo insomma sobbarcando in questi ultimi mesi deriva per buona parte dal 2009, quindi per certi versi anche si può dire che non sono ancora finiti gli anni zero. Volendo però e seguendo appunto un lato cronologico che ci porta appunto dallo 0 al 9, rumori 00, ovvero noi consideriamo il decennio passato, e nel decennio passato troviamo, come poi un po' vi stavo dicendo qualche secondo fa, anche tanto rumore rispetto agli anni 90, che hanno visto un recupero sia di quello storico, mi sto riferendo al minimalismo, sia di nuova attitudine, addirittura non soltanto strettamente legato alla composizione contemporanea, ma anche se ancora significa qualcosa la differenza con l'elettronica, visto che poi anche nel decennio dei 90 molta dell'elettronica si è avvicinata a una struttura complessa come quella delle musiche contemporanee, classiche contemporanee se vogliamo, tanto per capirci ulteriormente. E appunto un minimalismo che si è espresso sia in campo colto, tra virgolette, sia in un campo più basso, magari legato alle nuove elettroniche di stampo tecnoide ad esempio, e poi dopo Glitch, che insomma è diretta filiazione sia delle avanguardie ma soprattutto di quella grande rivoluzione tecnologica che appunto ci fu sia a livello sonoro sia a livello di strumentazione già negli anni 80, e che portò insomma a un discorso anche complesso, se per molti aspetti lo possiamo considerare tale, per altri è anche sicuramente meno espresso, ovvero il rumore, rumore che invece negli anni zero avrà assolutamente una carica iperbolica, tornerà in una certa qual maniera quel rumorismo brutista della fine degli anni 70, dei primissimi 80, recuperando appunto quell'irruenza, quella forza, quella anche attitudine assolutamente selvaggia che appunto ci riporta a uno dei temi cardine dentro gli anni zero di 451, ovvero l'industrial music, che per certi versi appunto è tornata dentro i nuovi rumorismi degli anni zero. Questo per quanto riguarda le filiazioni punk o parapunk o wave o post-cosmiche, insomma, se vogliamo considerare l'industrial questo quacervo di stili e soprattutto quell'attitudine, insomma, tremendista, ma c'è stata anche un'attitudine assolutamente sperimentale che si rifaceva ai grandi compositori della concrete music francese, Pierre Schaeffer, Parmigiani, ad esempio, che abbiamo visto, cioè non so se tutti, comunque molti di noi amanti delle musiche sperimentali hanno visto qualche giorno fa per il Festival d'Angelica, veramente un gran colpo, ventennale di Angelica, prima giornata con due performance, sì, potremmo anche definirle tali, di Parmigiani, Lalo Santa Lucia, straordinario per senso acusmatico e per quel dosaggio e manipolazione del rumore, spazializzazione addirittura di questo, appunto, quindi anche trovare una sorta di paesaggio sonoro, reinventarselo, e questo è un altro dei temi trattati poche trasmissioni fa qua, 451 frammenti sonori, quindi una sorta anche di attitudine, quella dei rumori degli anni zero, che ripescando appunto sia quel lato vagamente punk e wave, recuperava appunto quello stile e quell'attitudine selvaggia, sia dell'industria, ripescando i grandi compositori che erano ancora in nuce per molti aspetti, diciamo che l'esplosione delle musiche contemporanee, le grandi ristampe e anche tutta la riflessione su quelle che sono state le neoavanguardie dagli anni 50 in poi, legate all'elettronica, all'elettroacustica, paesaggio sonoro e quant'altro, sono state proprio di questi anni, fine anni 90 e inizi anni zero, quindi il portato dei rumorismi e dei rumoristi dello scorso decennio sicuramente hanno avuto questo più rispetto invece alle musiche industriali, dove c'era sicuramente questo aspetto anche di sperimentazione contemporanea, storica, ma era molto più sotterraneo. Invece succede proprio questa cosa assolutamente inedita, appunto dopo un decennio di minimalismi, gricismi, isolazionismi, un po' tutto insomma sull'onda di un riduzionismo anche assai creativo e assai intelligente, invece partiva in una sorta di bestialità recuperata, ma di grande anche intellettualità se vogliamo, la musica rumorista degli anni zero, che veramente ha abbondato a screzi e a facezie rumorisissime e assolutamente urticanti. Robedor, per iniziare, un consiglio, insomma, se non amate particolarmente i rumori, fate altro, spegnete la radio e fatevi una passeggiata o qualcos'altro, il computer, insomma, mom su 451 frammenti sonori .noblogs.org, perché lì appunto sentirete sicuramente rumori 00 e non è il caso se non vi piace. Quindi io vi ho avvertito, come si faceva nell'exploitation nel cinema degli anni 50, sapete dove andate incontro. Robedor, tanto per farvi un po' il palato, eh. faccende più cattive, più brumose, se vogliamo anche legate proprio a una sorta di atomizzazione, nel senso proprio di bomba atomica. Brobedor sicuramente rappresentano uno dei degli estremi, se poi consideriamo tutta la scena, forse si potrebbero anche considerare dentro poi un suono che nel paradosso si è normalizzato. Capisco che chi non è avvezzo a questo tipo di sonorità, di musiche, punto interrogativo, magari qualcuno potrebbe dire anche di musiche brutte, forse sì, ma sicuramente insomma c'è questo aspetto brutista dentro Robedor e dentro i personaggi che questa sera attraverseremo dentro Rumori 00, appunto dedicata 451 ai rumorismi, al rumore dello scorso decennio. Robedor Los Angelini, come buona parte della scena americana, portano americana chiaramente legata alla No Fun Record, alla Digitalis, all'etichetta di Giffoni che dopo sentiremo, insomma una Lanson, veramente tantissime etichette che circolano in maniera assolutamente sotterranea, seppur hanno una quantità di produzioni veramente impressionanti, tra l'altro non assolutamente avendo il problema del CD fedelmente inteso, ovvero come alta fedeltà, anzi viene cercata la bassa fedeltà, se non addirittura la non fedeltà del suono, proprio forme anche di registrazione assolutamente spartane, volutamente tali, non soltanto per condizioni economiche, ma per brutalizzare ancora di più il suono, per sperimentare una forma di brutismo sonico che poi non è mai fine a se stesso. C'è anche veramente una grande quantità, varietà e qualità anche chiaramente di sonorità, sia dentro Robedor sia dentro la loro sterminata discografia, e quindi anche all'interno di Robedor, che fuori, nel senso di scena sia losangelina che newyorkese, legata soprattutto a Brooklyn e anche del Midwest, dove insomma proliferano da più di qualche anno formazioni che si connettono appunto a questa sorta di non internazionale, perché per il momento è soprattutto faccenda americana quella di queste etichette, però si sta diramando anche per certi versi in Europa, che avendo avuto anche il grande impeto industriale, più magari di quello americano, industrial music americana sicuramente ha sofferto in ambiti di notorietà rispetto a quella inglese, ma anche francese, spagnola, addirittura italiana, meno conosciuti. Qua a Bologna abbiamo uno dei grandi personaggi e grandi attraversatori di quell'epoca storica, ovvero John Duncan, che salutiamo magari se l'ascolto ora, in America sembra che si sia appunto ripresa quella sorta di viatico, di via crucis crudele del rumore, perché appunto gli americani, comunque meno noti sicuramente per aspetti anche di sperimentazione, di un suono che veramente andava dentro il concreto, il concretismo più addentro al suono materico, quindi più difficile. Sicuramente certe cose invece, soprattutto degli inglesi, avevano certe metronomie, diciamo così, che li portavano anche verso una sorta di metal dance, che sarà poi quella che effettivamente si svilupperà in Europa e che avrà insomma come lascito l'Electronic Body Music, IBM, non IDM, che invece è Intelligence Dance Music, tanto per anche qua ci potremmo dilungare anche facendo strani passaggi in questo senso, ma non lo faremo, insomma già ho le mie, come dire, dilatazioni personali, quindi non vado a impelagarmi con faccende soprattutto di altri, insomma di agganci che hanno fatto critici musicali. E riprendendo appunto quella quella voglia e quel desiderio sperimentale, ripercorrendo per molti versi, poi anche superandoli per tanti altri, le vecchie genie industriali americane, questi nuovi appunto noiser statunitensi si sono lanciati veramente in suono che a livello di brutismo e bruttismo veramente ha da insegnare tantissimo agli europei, che insomma latitano sicuramente sotto questo aspetto. E però ci sono ovviamente delle degne eccezioni che vengono proprio da quegli anni 90 minimalisti, come dicevamo prima. È un gruppo che probabilmente non ha bisogno di grandi presentazioni, non soltanto qua a 451, ma in generale. Beh, in effetti il discorso che facevo prima sull'allaccio tra musiche industriali che stavano diventando in Europa metal dance, poi appunto electronic body music e certa IBM, IDM, cioè Intelligence Dance Music, in effetti non in Inghilterra, dove le metronomie, dicevo prima, furono piuttosto importanti anche per vari industrial artist, chiamiamoli così, ma in Finlandia succedeva questa faccenda con un gruppo, o meglio un progetto che ha veramente dell'incredibile per qualità sonore e per mutamento storico anche di quello che è il regno del rumore, di quello che è partito come un progetto legato alla techno, seppur alla techno appunto sicuramente più brutista, macchinista, dentro appunto una sorta di futurismo lanciato nell'iperspazio, oppure nella di converso in una sorta di micro realtà, talmente micro che appunto si rende quasi atomizzata. Panasonic o Pansonic, io amo ancora chiamarli come appunto situazionisticamente si facevano chiamare nei primi anni 90, prima che appunto la Panasonic creasse problemi ai due finlandesi, e dalle prime esperienze appunto legate a una sorta di techno memore di quella metal dance soprattutto inglese, pian pianino si è sviluppato sia lavorando col glitch ma anche con un certo minimalismo, certo quello di impronta più rumorista, sicuramente avendo in mente certo Tony Conrad e anche certo Charlemagne Palestine, che poi sarà in effetti, come dire, uno dei passaggi fondamentali dentro l'immaginario sonoro e ultrasonoro soprattutto di Pansonic o Panasonic. Questo passaggio epocale si è compiuto appunto attraverso sia una connessione con queste avanguardie, con le avanguardie appunto minimal massimali, si potrebbero chiamare, di scuola la Montagnan, ma anche dei filati geniali appunto come Palestine, e attraverso quell'immaginario assolutamente decomposto sonoricamente terrorista di Throbbing Gristle, con le tattiche shock, con una sonorità che era sempre ultra, sempre iper, sempre super, non assolutamente legata a nessun aggettivo che potesse insomma diminuire la carica eversiva di un suono che si è fatto leggendario, come d'altronde furono appunto leggendarie le performance, dischi e atti di situazionismo da futurista di Throbbing Gristle. Pansonic appunto attraverso questo immaginario, attraverso una techno appunto che già nei primi anni 90 iniziava a essere decostruita proprio da loro, avendo un rumorismo sotterraneo che poi esploderà già alla fine degli anni 90 con un album meraviglioso come quello insieme a Alan Vega, quindi altri personaggi che diventano una sorta appunto di stella lucente dentro il cosmo panasonico, ovvero Suicide, Alan Vega, un disco incredibile anche questo, e poi un suono che si radicalizza sia per un oggetto che è veramente difficile da definire, ovvero questo Chesto del 2004, 4 CD con i primi due veramente con sonorità assolutamente urticanti, il terzo che è quello che abbiamo in sottofondo e che abbiamo ascoltato insomma in parte, dove viene diciamo reso scuro dentro un tunnel veramente da non uscirne più vivi, viene reso il suono ultrasonico dei nostri finlandesi, reso appunto anch'esso massimale dentro comunque appunto una grana sonora che va assolutamente analizzata non più come glitcheria ma proprio come concretismo come dato, insomma, fisico anche, in effetti poi le, sia le composizioni ma anche le performance degli ex, oramai dell'ex formazione Panasonic, visto che non esistono più, si sono sciolti da poco, e proprio un esperimento anche proprio sulla fisicità del suono, queste strumentazioni analogiche magari filtrate digitalmente o viceversa, quasi appunto una sorta di analisi spettrografica di quello che è la possibilità del suono e delle sue iperboli. Chesto, oltre poi a questi tre CD, ne conteneva anche un quarto, una sorta di drone che più scuro non si può, assolutamente fuori da qualsiasi popismo, potremmo chiamarlo drone, per quanto insomma la cosa potrebbe essere anche abbastanza assurda per molti aspetti, ma certe forme di drone sicuramente stanno diventando, se non popolari, comunque conosciute. Non è un caso, insomma, che ci siano produzioni veramente quasi aiosa, si potrebbe dire, legate alla drone. In questo caso, appunto, Inchesto di Sole 2004, anche il quarto disco dedicato al drone, è un viaggio veramente di quelli che non si scordano, appunto, legato forse al bad trip più che alle good vibration di alcuni, appunto, che stanno recuperando il drone in chiave più che altro psichedelica e appunto di fuga cosmica. E con Panson, che quindi una sorta di memoria storica che evocava da Robin Gristle a Charlemagne Palestine, a Tony Corrad, a Suicide, a uno che ha creato il rumore. Se si può parlare di rumorismo, sicuramente lo si deve tanto anche a lui. In questo caso il personaggio giapponese, vero e proprio totem per quanto riguarda il rumorismo internazionale, internazionalista e assolutamente indefesso, ovvero Merzbo, insieme a Carlos Ghifoni, giovane artista appunto legato alla scena americana, quindi una sorta di connessione che avviene con quella avanguardia storica legata all'industrial come Merzbo, e in mezzo una figura chiave per quegli anni 90 riduzionistiche, però in questo caso, appunto, come abbiamo già sentito con Panasonic, reinventa il rumore facendolo uscire fuori, non come aveva fatto negli anni 90, introiettandolo dentro una sorta di isolazionismo anche estremo per molti versi. Disengang, ad esempio, uno dei dischi suoi straordinari in questo senso, nel senso di isolazionismo. Jim O'Rourke, quindi Merzbo, O'Rourke e Carlos Ghifoni. Buon divertimento per qualche minuto, se di divertimento si tratta.